poi la selezione più larga, qualcosa è rimasto fuori, è rimasta fuori, ma poi ecco, sono riuscita, come dire, ad acchiappare quel sentimento che c'era prima e farlo veramente attualizzarlo. Ecco, questo ho fatto. Penso a canzoni come Bambini o come le prime, proprio Ringrazio Dio, con una veste acustico-elettronica. Bambini è una versione più acustica, però anche altre, appunto, dove a un certo punto arrivano queste sonorità, insomma, un po' misteriose, ipnotiche. Risultano affascinanti, risultano belle, insomma, ci è piaciuto anche poi il confronto con generazioni molto più lontane dalle mie, no? Più giovani, è stato bello, perché qualcuno ha detto: ma questa chi è? Questo è strano, questo pezzo, ma è Paolo Turci, non è possibile. E quindi mi ha fatto anche in un certo senso piacere. Mi succede anche di faccia, voglio dire, quando mi si incontra, no? Ma tu sei Paolo Turci? No? Io pensavo che fosse una signora. invece sono io, ecco, sono questa. Tu che parti dall'idea che mai niente cambierà, come foglie sopra gli alberi, noi due cambiamo già. Sei sicuro che io sia solo quello che tu sai? Nella vita l'abitudine non fa vedere mai la verità. Invece ha un'atmosfera un po' diversa il singolo che noi abbiamo ascoltato dal 20 marzo, Io sono. Sì, il singolo, intanto è scritto da Francesco Bianconi e Pippo Caballà, e con Bianconi ho un rapporto ormai insomma, cos'è, decennale, perché è la terza canzone che mi scrive, e mi piace ridiventare interprete ogni volta che sento una canzone che mi piace di Bianconi, e qui è stato proprio il mio biografo in questa canzone. Inizialmente si intitolava Io non sono, quando l'ho sentita mi ha colpito, ma poi quando me la sono messa addosso, quando l'ho provata voce e chitarra, ho pensato che questa potesse rappresentare tutto il lavoro che stavo facendo, però doveva essere un presente indicativo e positivo. Bello, un bel manifesto. Senza negazioni. Voglio solo che ti perdi, non ti chiedo quanto resterai, no, né promesse né ricordi, non è quello. Oh no, lo sai, un minuto per averti, un saluto quando te ne vai. Poi, quando passa questa notte, come un sogno passerai. Che domani è tardi, che adesso è sì, sì, per come mi parli tu, perché siamo qui, è questione di sguardi, è un attimo così, così, magnetico, così, così. Senti come si colora questa notte che poi mai più. Nelle tue note biografiche si dice che ci sono circa 30 anni di carriera, cosa assolutamente impossibile, perché ne hai 25 anch'io, e vedo assolutamente la matematica ancora da compiere, questo. Compie a settembre. Certo, non possiamo ancora votare per il Senato, no. Quindi ecco. È cambiato tutto il mondo in 30 anni, cioè la musica è cambiata completamente, cioè l'album quasi non esiste più, per i ragazzi ci sono i singoli, un modo di fruire della musica completamente diverso. Cioè, uscire adesso con un album, che impressione fa?